Affacciati alla finestra, amore. Affacciati alla finestra. Bella mia. Bella mia. Ta-tan. Io non ti prometto qualcosa che non ho. Che ma tu chiedi a me i due movimenti. Ma se te lo dico, chiedi a me che so. Perché ma a forza di sentire quello che non sono, non posso essere. No, non sei un asinello, dai. Allora, ma qua perché parliamo pure dello stesso modo? Come le gemelline siamesi. Comincia tu, se no qua finiamo qui. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Love their children too. Anche i russi amano i loro bambini, i loro ragazzi, i loro figli. Perché abbiamo scelto questa canzone, Nicoletta? Proprio perché Sting ce l'ha messa un po' su un piatto d'argento con questa frase tratta da questa sua famosa canzone. Hanno suscitato un bel po' di clamore le dichiarazioni appunto di Sting, che ha fatto sapere che non lascerà nemmeno una sterlina ai suoi 6 figli. Nella vita, ha detto, dovranno lavorare e cavarsela da soli. E insomma, secondo te è tirchio oppure è stato un po' un modo per dire guarda che bravo padre che sono, c'è un po' anche un intento educativo dietro a queste dichiarazioni? Cosa devo risponderti? Lo scopriremo strada facendo. Comunque una bella domanda, ma dobbiamo considerare che l'ex leader dei Police di soldi ne ha parecchi, perché ha un patrimonio di 220 milioni di euro. Anche averlo come amico non sarebbe male. No, cioè, capisci che quindi 6 figli sono presto sistemati. Però direi che non è l'unico a pensarlo in questo modo. Pensa che un sondaggio tra le famiglie più facoltose del mondo, noi non stiamo, siamo state interpellate, ad esempio. No, non capisco. Tu forse guarda, non c'eri. Proprio non capisco per quale motivo. Allora, svela che una delle maggiori paure dei ricchi è che i loro figli crescano senza motivazioni e ambizioni, visto che il denaro ce l'hanno già. E allora, ad esempio, Bill Gates ha fatto sapere da tempo, quindi il nostro Sting è in buona compagnia, che non lascerà i suoi 56 miliardi di dollari. Tu sapresti scriverli, pensa qua, io non me li vedo neanche, ma li spenderà per sconfiggere, questo ci piace, la povertà globale. Ma allora, oggi vogliamo farvi una domanda: qual è secondo voi la giusta eredità da lasciare a un figlio? E dato che non tutti siamo genitori, ma tutti siamo figli, che cosa avete ereditato voi? Questo è un tema che si presta proprio alla lettura di Cuore Denari, sembra fatto apposta. È vero. Allora, se vi chiedessero di dire 3 cose che avete ereditato dai vostri genitori, che cosa rispondereste e in che ordine? Denaro, educazione, valori, complessi, insicurezze, sicurezze, fragilità? 800 24 00 24, ne parleremo nel corso della trasmissione, ci raggiungerà anche il dottor Aquila, intanto però voi iniziate a chiamarci e a scrivere. Bene, eccoci in un altro imbroglio per colpa tua. Perché dici che è colpa mia? Tu ti chiami Laurel, non è così? Olio! Cosa? Ti ricordi quello che mi hai detto pochi minuti fa all'ingresso? Per quanto riguarda la metà di tutto quello che aspetterà a me? Sì. Beh, ci ho ripensato. Non vuoi più darmi neanche la mia metà adesso? No! Allora ecco, cosa hai pensato? Che hai fatto sempre molto per aiutarmi. Così io ti do tutto. Ed è molto divertente questo brano tratto dal film I Vagabondi. Stanlio e Olio ereditano una casa che non si rivela molto accogliente perché sono i fantasmi, Nicoletta, e quindi cercano a modo loro di sbolognarsi la vicenda. E non è certo il caso della famiglia Sting, perché con un patrimonio così, tra diritti discografici che minimo potrebbero far vivere di rendita almeno 4 generazioni tra figli, nipoti e pronipoti, ecco che questa intervista confessione al Mail on Sunday, che è il domenicale del Daily Mail, ci ha fatto riflettere, come diceva dicevamo prima. Allora, oggi ci chiederemo se è possibile stabilire, con una dichiarazione ad un giornale, che ai figli non si vuole lasciar nulla o se invece è necessario un atto formale adeguato. E lo chiediamo subito al nostro ospite di oggi, il notaio Arrigo Roveda, presidente del Consiglio Notarile di Milano, oltre che membro del Consiglio Nazionale del Notariato. Buongiorno, notaio. Buongiorno. Buongiorno a voi. E allora, questa dichiarazione ad un giornale, secondo lei, ha qualche effetto di tipo legale? No, in Italia perlomeno non avrebbe nessun effetto di tipo legale. Per disporre le proprie volontà in maniera diversa da quanto prevederebbe la legge occorre un testamento. Benissimo. Allora, semplice, si scrive su un pezzo di carta. Ecco, bastano anche poche righe, insomma. Quindi diciamo se... cioè il fatto che sia su un giornale per iscritto, che queste dichiarazioni siano per iscritto su un giornale, non vale come testamento. Può ripensarci e tornare indietro e farne un'altra assolutamente esatto, lasciare diversa. Almeno qualche spicciolo. Notaio Roveda, Sting ha detto... quello che guadagno spendo, abbiamo un sacco di costi fissi, i soldi se ne vanno, quindi non penso mai di mettere da parte qualcosa tipo un trust per i miei figli. Loro sanno che dovranno lavorare per vivere, non mi chiedono mai nulla e non si aspettano nulla, cosa che apprezzo molto. Naturalmente io non le chiedo un commento sulle parole di Sting, le chiedo però di spiegarci che cos'è un trust, perché Sting non parla semplicemente di eredità. Il trust è un istituto culturalmente molto noto nel mondo anglosassone, lo è meno in Italia, ed è uno dei modi con cui si devolve la propria eredità a favore dei propri figli, a favore di altre persone, a favore di quelle che chiamano charities, cioè di enti di beneficenza. È un semplice strumento. Il concetto qua mi sembra più sulle finalità, sugli scopi che sullo strumento utilizzato. Certo, qual è in Italia l'istituto giuridico più vicino al trust? Quindi non esiste, come ci diceva lei, si parla solo di eredità, oppure c'è qualche cosa che ha un formato, una conformazione appunto giuridica simile a questo istituto anglosassone? L'istituto più vicino al trust è il trust, che può tranquillamente essere fatto anche da un cittadino italiano. Ai fini successori non è ancora uno strumento molto utilizzato. Ma il presupposto del trust è che ci sia in ballo un'eredità molto consistente, notaio? Direi proprio di sì. Quindi bisogna essere ricchi. Quindi non so, allora io se ti voglio lasciare tutti i miei libri di denari, Nicoletta, non è necessario fare il trust, te li mollo lì sulla scrivania, è finito. Notaio, abbiamo già tra l'altro degli ascoltatori pronti ad intervenire, il primo è Gabriele da Roma. Che dici, Nicoletta, prima di andare alle altre domande lo lasciamo... intervenire subito? Vuoi, sì, non volevi cucinarlo un po'. No, Gabriele, subito. Buongiorno. Buongiorno a voi a tutti. Ci dica. Guardi, io ho un'esperienza che sto vivendo in questo momento, in questo periodo qua. Praticamente da giovane i miei si divorziarono, poi mio padre fece la scelta di accompagnarsi con un'altra persona e si sposò. Da lì nacque un fratello di nome Marco, ma questo importa poco. E la domanda è questa: siccome mio padre ha voluto donare, abbiamo saputo che lui ha donato in vita, quindi è ancora in vita mio padre, tutti i suoi averi, appartamenti e quant'altro, ha un unico fratello, questo Marco. Sì. Diciamo che a noi non ci ha neanche interpellato, o comunque non ci ha detto. Voi quanti siete, Gabrieli? Quanti fratelli? Allora, tre dal primo matrimonio di mio padre e uno... E questo Marco. E questo ragazzo Marco, sì, insomma. E lui questa donazione quella fece anche quando lui era minorenne, tra l'altro, quindi... Non so se può valore queste cose ha qua. Ha qualche azienda, Gabriele, suo papà, diciamo il patrimonio che ha... deciso di donare in questa maniera è composto da che cosa? Dice appartamenti, ma ci sono anche attività imprenditoriali? Insomma, vuole sapere se può fare un trust. Lui comunque no, è una persona sta in pensione, ha fatto una vita normale e ha messo da parte dei soldi e poi da lì ha comprato delle case, ha comprato dei terreni e poi tutto ciò l'ha lasciato, lo vorrebbe lasciarlo tutto a lui. Tutto a lui. Gabriele, la ringrazio, in bocca al lupo per la sua vicenda. Notaio Roveda, io non so molto di questo argomento, ma da quello che capisco in realtà c'è la quota legittima che in realtà questi tre fratelli dovrebbe essere riconosciuta, per cui tutto ciò che è stato donato a questo Marco, più volte citato stamattina, probabilmente può essere impugnato? Allora, intanto il donante, genitore di Marco e del nostro ascoltatore, è in vita e quindi vita dei suoi beni fa quello che vuole. I conti si faranno alla fine, faranno quando mancherà questo signore, speriamo il più tardi possibile, e in questo periodo potrà accumulare altre ricchezze o spenderne. Certo. E si faranno alla fine. Alla fine i conti si fanno e si devono fare i conti con tutti i legittimari. cioè coloro che hanno diritto ad una quota dell'eredità. Quindi probabilmente anche la prima moglie. La prima moglie? No. Non esiste. Di moglie ce n'è una sola. Ah, ecco. Prima e seconda sono convenzioni, ma l'unica moglie, se sarà sopravvissuta. Quindi la moglie e i figli. E lì si faranno i conti. E se ci sono se le donazioni fatte in vita avranno leso la legittima del nostro ascoltatore, ci saranno gli strumenti giudiziali per rientrare in possesso di una parte del patrimonio ereditario. Questo dimostra quanto siano diversi i mondi anglosassoni, quelli dove vive Sting, e i mondi di diritto romano, qual è il nostro. Le regole sono veramente tanto tanto diverse. Diverse, e so che lei pensa anche che siano molto, un po', tra virgolette, antiquate, ma poi su questo ci andiamo. Vedi, Nicoletta, che tra i messaggi c'è l'ascoltatore Giovanni che cita anche il caso della signora Pastor di Monte Carlo, che è stata, poveretta, uccisa, una grande ereditiera, che elargiva ai suoi figli la paghetta di 500.000 euro al mese. Non contenti, l'hanno dovuta pure far fuori. Quindi io volevo leggere anche alcuni messaggi dei nostri ascoltatori che sono stimolati dalla nostra richiesta. Sì. Che cosa avete ereditato dai vostri genitori? Non esiste solo un'eredità in denaro, ma esiste un'eredità morale, educativa. Elisa ci scrive: l'importanza dei sentimenti, l'onestà e la voglia di indipendenza. Bello. Purtroppo anche tante paure, perché nessuno è perfetto. I tre obiettivi sopracitati mi stimolano a raggiungerli. 800 24 00 24, parleremo di questo anche con il dottor Aquila in chiusura di trasmissione. Vorremmo, proprio a proposito di eredità, fare un bilancio di quello che abbiamo ricevuto dai nostri genitori, che patrimonio abbiamo avuto in eredità per quanto riguarda i valori, l'educazione. Proviamo a fare un bilancio per capire se è positivo o negativo. Tante volte le nostre insicurezze, le nostre insoddisfazioni le attribuiamo ai genitori, dicendo: abbiamo ereditato da loro, no? Queste paure non mi hanno fatto crescere. Cercheremo di fare un bilancio. Intanto grazie per i vostri messaggi, che sono davvero molto belli. Esatto. E Roberto da Padova scrive, per esempio, probabilmente riferendosi ai figli: mi piacerebbe riuscire a non lasciargli i debiti. Notaio Roveda. Questa lo sapevo, ho detto, la donna di denari andrà subito a vedere i debiti. Notaio Roveda, a parte questo, ma in che misura, adesso ritornando un po' al caso di Sting, che non ha formalmente diseredato i suoi figli, no? Credo che abbia voluto lanciare questo messaggio proprio a scopo educativo, come dire, non è perché noi ne abbiamo tanti di soldi che questi si mettono in panciolle. Esattamente. Però fino a che punto è possibile, appunto, diseredare un potenziale erede? E in Italia, secondo lei, si fa molto spesso? Allora, noi abbiamo un senso della famiglia diverso, nel bene e nel male, direi, rispetto al mondo anglosassone, quindi non è così frequente. Certo, il moltiplicarsi dei modelli familiari, dei matrimoni e cose, in qualche modo attenua i vincoli rispetto, per esempio, ai figli nati da un primo matrimonio con cui si sono persi i contatti. L'esempio dell'ascoltatore che ha chiamato prima, quelle donazioni dell'intero patrimonio assomigliano a una diseredazione, ma contro queste diseredazioni poi ci sono degli strumenti di tutela. Altro è se uno non ha né moglie né figli né genitori in vita, e allora la diseredazione equivale alla nomina di un erede diverso dal parente più vicino. Certo. Questo invece è molto frequente. Quindi questa è la situazione di chi non ha parenti stretti, appunto, ma in questo caso esiste il primo parente utile, notaio Roveda, a cui destinare la cosiddetta quota della legittima, o di questo istituto si parla solamente quando ci sono, appunto, congiunti molto stretti, figli e non oltre? Figli, coniuge e genitori in vita, se non ci sono figli, nessun altro. Perfetto. Fratelli non valgono. I fratelli hanno diritto all'eredità se non si dispone diversamente per testamento, ma se c'è un testamento i fratelli possono essere diseredati, che non è corretto dire, non nominati eredi. Allora, diciamo che quello che possiamo dire è che, come sempre, come capita nella salute, Nicoletta, prevenire è meglio che curare. Allora, magari finché si è in vita, ci riferiamo chiaramente ai genitori che magari hanno un patrimonio più o meno consistente, e per non far litigare potenzialmente in futuro i figli, forse è bene che si rivolgano ad un professionista e cerchino di capire come disciplinare, finché appunto sono in vita, bene le loro situazioni. Sentiamo un po' Carla da Genova, se ha una domanda proprio in questo senso. Carla, buongiorno. Sì, sì, buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Senta, io volevo fare una domanda al notaio a proposito del disciplinare i beni. Io ho una sorella e mia mamma è ancora in vita. Uh-huh. E appunto ci stiamo domandando in questo periodo, e anche mia mamma ci sta domandando in questo periodo, se è meglio fare una donazione o fare un testamento, in modo da lasciare già le cose divise tra me e mia, certo, sorella. Mm. Non ho la cifra da dividere di Sting, però insomma, un po' meno, diciamo così, Carla, un po' meno. Leggermente, ecco, meno, sì, anche, sì, noi, sì, anche noi, vero? Però ci accontentiamo, ah, dai. Assolutamente, infatti. Anche perché, guardi Carla, ne parliamo tante volte, noi forse come genitori non potremmo lasciare ben poco ai nostri figli, io perlomeno non ne ho, ma magari ai nipoti, invece ancora viviamo, come dire, una situazione in cui per fortuna ci sono mamme e nonni che aiutano e che fanno da protezione sociale molto importanti in questo momento di crisi. Comunque, donazione o testamento? Notaio Roveda. Per prima cosa, le sistemazioni familiari sono spesso piuttosto complesse, articolate e richiedono di conoscere la situazione attraverso i colloqui, quindi la signora potrà sicuramente rivolgersi a un notaio di Genova, ce ne sono di bravissimi. Certo. La differenza è che con la donazione chi ha i beni se ne spoglia immediatamente. Esatto, diciamo gli eredi potenziali. Sempre alle persone che si rivolgono a me è che la vita è lunga, che sta diventando sempre più lunga. Esatto, sì. E soprattutto sta diventando lunga la vita inattiva, cioè da quando si smette di lavorare, di produrre del reddito, e spogliarsi in vita dei propri beni significa poi dover andare a chiedere per piacere a qualcuno, possiamo vendere questo bene che io devo curarmi, farmi assistere. Quindi anticipare questi trasferimenti può avere delle controindicazioni. Certo, quindi insomma pensatela bene, Carla, anche in virtù di questo suggerimento. Hai sentito i notai che oggi devono anche fare un po' i consulenti psicologici, devono fare i consulenti previdenziali, attenzione che la vecchiaia... Devi entrare proprio nelle dinamiche familiari, notaio. Sì, e c'è un'altra cosa da tenere in considerazione. Quando si divide in vita, o anche si divide per testamento, si basa su dei valori attuali. I valori poi vengono modificati. Abbiamo visto il mercato immobiliare che fluttuazioni ha avuto in questi recenti, certo, anni. E quindi qualcuno che pensava di aver avuto un bene che valeva 100, invece si ritrova ad avere un bene che vale 60. Chi ha avuto magari delle azioni, ha avuto le azioni rivalutate o svalutate. Quindi anticipare i trasferimenti non significa sempre fare le cose eque. Certo. Bisogna capire la composizione del patrimonio, quant' è la parte del patrimonio di cui si anticipa il trasferimento. Insomma, fare un'analisi che richiede di conoscere molto bene attraverso ripetuti colloqui, esatto, la situazione familiare. E appunto poi ricordare anche molto bene che se magari noi oggi abbiamo in mente che i nostri genitori debbono lasciarci un patrimonio che ha un determinato valore, magari quando poi il trasferimento si perfeziona il valore può essere tutt'altro, per cui ecco, ricordarsene queste cose, non rimanere poi negativamente sorpresi quando, appunto, come diceva il notaio, il trasferimento dei beni si perfeziona. C'è anche una domanda di indirizzo di Cuore Denari. Nicoletta, la leggo. Che lo vogliamo leggere, sì, vai. Ci scrive Alberto, a proposito di genitori che non vogliono lasciare eredità ai figli, non è paradossale che un coniuge abbia diritto a risarcimenti in seguito ad un divorzio, nonostante il progetto matrimoniale sia stato, almeno inizialmente, accettato liberamente, mentre i figli, a cui nessuno ha mai domandato se volessero essere messi al mondo, non hanno diritto a risarcimenti? Di che risarcimenti parla Alberto, notaio Roveda? La domanda è un po' oscura, non riesco a percepirne il significato fino in fondo. E allora Alberto, magari se vuole ci scriva un po' più di dettaglio. In questo caso evidentemente si è consumato un divorzio, alla moglie sarà stato riconosciuto qualche assegno, un indennizzo, ma non so se sia il caso, notare se si verifica. Come si dice? Si scriva. Deborah fa anche il gesto della gesto pianista con le manine. Prima di andare ai mercati, certo, sentiamo i mercati. Eccolo. Stefano da Modena ci scrive: notaio, vorrei rinunciare a quel poco che mi lascerà mio papà perché ho pignoramenti. È possibile? Lascerei tutto a mia sorella. Lei riesce a darmi una risposta rapida prima dei mercati, sì o no? O ci sono dei distinguo da fare? Uno, non si può rinunciare a un'eredità quando la persona è ancora in vita. Due, si può rinunciare all'eredità dopo che la persona è mancata. L'eredità si devolve ai discendenti o, in caso di mancanza dei discendenti, a coloro che sono chiamati insieme a noi, all'eredità. Quindi diciamo che prima della sorella Stefano dovrebbe vedersela con i figli? Se ha dei figli, sì. Mm. E se no? Peraltro se la deve continuare a vedere anche con i creditori, perché hanno comunque degli strumenti per tutelare. Ci ritorniamo un po' più nel dettaglio su questa faccenda della rinuncia all'eredità, soprattutto quando questa è problematica. 800 24 0024, pensa numero se verde. I figli dicessero: non me la volevi dare, adesso non la voglio. No, ecco. Anche perché tra l'altro loro se la stanno spendendo bellamente tutta, e quindi va a sapere poi che cosa rimane una volta che lui non c'è più. Sicuramente una grande eredità musicale. Cuore e denari. Padre, occhi gialli e stanchi, nelle sopracciglia il suo dolore da raccontarmi. Ah, madre, gonna lunga e fianchi, nelle sue guance gli anni e i pranzi coi parenti. Non mi senti o non mi ascolti, mentre piango ad occhi chiusi sotto al letto. Padre, se mi manchi è perché ho dato più importanza ai miei lamenti. Madre, perché piangi? Allora, Deborah, se siamo quello che mangiamo, per certi versi siamo anche un po' quello che dei genitori abbiamo imparato, l'eredità, quell'eredità morale, eredità educativa che abbiamo ricevuto, perché noi siamo un po' frutto degli esempi che abbiamo ricevuto dai nostri genitori, dei loro condizionamenti positivi e anche negativi. Ci sono per questo persone che hanno dei conti in sospeso con la loro famiglia d'origine, e si pensa che sia solo un problema degli adolescenti, invece non è così. Si può soffrire per la relazione con il proprio padre, la propria madre, anche quando non si è più ragazzi. Gli antichi dicevano che le colpe dei padri ricadono sui figli, ma a volte, l'avevamo anticipato prima, sono i figli che incolpano i padri o le madri degli insuccessi, della loro fragilità, del loro disagio, dei loro fallimenti. A volte mettere sul banco degli imputati i genitori è sano, e a volte una scusa per non prendersi le proprie responsabilità. Allora, oggi che parliamo di eredità, vogliamo invitarvi e ci invitiamo reciprocamente anche con Deborah a dire un pochino a noi stessi la verità. È tempo di bilanci, servono a tutti, ma in particolare a chi da figlio diventa genitori. Chiamateci, ci raggiungerà come anticipato il dottor Aquilar, con cui parleremo anche delle fatiche che devono affrontare i genitori di oggi. Vi abbiamo chiesto che eredità avete ricevuto e che tipo di eredità, quanto vi rende persone equilibrate, serene, sicure, e invece anche però quale eredità vorreste lasciare voi ai vostri figli. 800 24 00 24. Testamento, eh? Ah, testamento. Bene, allora, chi sono i beneficiari? Beh, come sai, io non ho parenti in vita. E naturalmente voglio che i miei adorati gatti siano sempre trattati bene. E certamente nessuno lo può far meglio del mio fedele maggiordomo Edgar. Ma ti dai, che vuoi dire che vuoi lasciare tutto il tuo cospicuo patrimonio a Edgar? No, a Edgar, ai miei gatti. Ai tuoi gatti? Ai gatti? Non è giusto. Capirai, ogni gatto vivrà circa 12 anni, non posso aspettare, ogni gatto ha 9 vite. E insomma, questo brano tratto dagli Aristogatti, perché Notaio Roveda, che è il nostro ospite questa mattina, prima di sentire gli altri casi degli ascoltatori, ci capita spesso di leggere dei giornali anche di casi particolari in cui, ad esempio, persone molto benestanti lasciano tutto in eredità ad associazioni di volontariato, a canili, gattili o comunque insomma in beneficenza. Sono i cosiddetti lasciti solidali, no? Testamenti solidali. Hanno molta diffusione in Italia. So che voi di recente avete diffuso anche proprio come notai italiani un bilancio su questo fenomeno. È in aumento, è un fenomeno in aumento parallelamente al moltiplicarsi dei modelli familiari e quindi anche delle famiglie costituite da una sola persona. E direi che il testamento solidale si accompagna spesso al non avere discendenti diretti. Mm. E comunque è un fenomeno in aumento, sì, decisamente. Ecco, ho questo bilancio che tra l'altro avevo citato, molto lungo, ma va segnalato, Nicoletta, che è donna fondamentalmente, il 60% di chi dona con il proprio testamento, e peraltro è partita proprio per iniziativa dei notai, ma non solo, anche insieme a tante altre associazioni di volontariato, la seconda campagna del network Testamento Solidale. Ma si possono impugnare, notaio, questi testamenti? Insomma, si lascia tutto al canile, tutti i parenti rimangono a bocca asciutta, possono fare qualcosa? Ancora una volta, se ci sono discendenti diretti con i genitori in vita, c'è il diritto alla propria porzione di legittima. Se non ci sono questi soggetti, l'unica possibilità è provare che chi ha disposto non fosse in grado di intendere e volere. Anche questo, in questo, fare un testamento per atto notarile può aiutare a risolvere questi problemi. Mm-hmm. Notaio, Renzo ci scrive al 349-238-6666. Qual è, secondo lei, il modo più sicuro per lasciare a enti e associazioni il proprio patrimonio? Quando, specifica, proprio non si ha più nessuno e si è rimasti soli? Basta andare dal notaio? Sì, certo. Farsi consigliare da un notaio e scrivere, facendosi sempre aiutare dal notaio, il proprio testamento. Che tra l'altro, appunto, adesso a parte il fatto della consistenza del patrimonio, non credo sia neanche un documento particolarmente complesso, no? Notaio, l'importante è stabilire con chiarezza chi è l'erede designato e individuato. Ce ne sono di molto semplici, la gran parte, e ce n'è qualcuno anche di particolarmente complesso, perché spesso succede che non si vuole lasciare interamente il proprio patrimonio a un soggetto, ma si vuole costruire una vera e propria divisione del proprio patrimonio in maniera articolata. Quindi ci sono testamenti semplici, ci sono testamenti complessi. Una supervisione è sempre opportuna. Direi di sì. Andiamo a Bergamo, Pordenone. Pordenone. Pasquale, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Eccoci a lei. Che effetto le fa essere preferito? Un po', vero? Sì, gongola un pochino, dai, dai, che è la sua giornata, Pasquale. Ci dica. Allora, il problema è questo. Il problema è questo. Siamo in 5 fratelli, praticamente. E 2 di quali, uno purtroppo è fallito e un altro, un distributore di benzina, sta per fallire anche questo. Il problema è, nel momento in cui, siccome non hanno fatto ancora niente i miei genitori, cosa dovrebbero fare per non perdere nulla? Perché poi, se dovessero mancare, penso che anche gli altri perderanno qualcosa. Aspetti lì, Pasquale, e sentiamo se il notaio Roveda ha bisogno di altre informazioni da parte sua. Notaio. Ma mi pare di capire che i genitori non abbiano avuto questi problemi, quindi loro non rischiano nulla. Pasquale, ce lo conferma? Se dovessero mancare? Se dovessero mancare non rischiano nulla, perché non ci sono più, evidentemente. Quindi stiamo parlando di gli eredi, intende Pasquale. Gli eredi, in quanto ereditano, appunto, sembra una ripetizione, naturalmente accrescono il loro patrimonio, che è un patrimonio che, se gravato da debiti, poi rischia di effettivamente essere mandato in esecuzione. Non abbiamo nessuna possibilità, notaio Roveda, di non poter accettare questi debiti, se siamo gli eredi legittimi. Bisogna chiarire, i debiti non sono dell'eredità, sono dell'erede. Appunto. Ciascuna persona risponde dei propri debiti con il proprio patrimonio. Se si accetta un'eredità, il proprio patrimonio accresce, e quindi i debiti rimangono, non vengono aumentati per il fatto di ereditare, semplicemente aumentano i beni con cui far fronte al pagamento dei propri debiti. Quindi, tutto sommato, no? Non va mica tanto male. Ai creditori sicuramente non va male. Infatti. Allora, se uno vuole rinunciare all'eredità, i creditori poi hanno delle azioni a tutela dei loro crediti. Questa cosa però non eredita neanche, quindi non è che migliora la propria situazione. Paolo, è arrivato il suo momento. Buongiorno. Buongiorno, Paolo da Bergamasca, allagata. Guardi, anche allagata. Qua stamattina ne è venuta giù che Dio l'ha mandata, come si suol dire in gergo finanziario. Paolo, ci dica. Niente, allora, il padre in vita fa degli atti, cioè vende, tra virgolette, la nuda proprietà solo ad un figlio. Alla morte viene scoperto che ha dato tutto, la nuda proprietà, a un figlio e non all'altro. Che succede? Può essere impugnato, può essere fatto qualcosa? Notaio Roveda, non mi deluda adesso con questa quota della legittima. Allora, sono le virgolette che mi preoccupano. Se qualcuno vende la nuda proprietà, vuol dire che qualcun altro ha pagato un prezzo. Ah, E quindi non c'è stata nessuna lesione, perché è uscito un bene e è entrato del denaro. Le virgolette fanno però maliziosamente pensare che non di vendita si sia trattato, ma di una donazione vestita da vendita. Paolo, lei che sensazione ha? Che cosa potrebbe essere successo tra suo papà e suo fratello? La seconda ipotesi. Ecco, giri qua un po' il coltellino nella piaga. E dobbiamo dare consigli, certo, operativi noi questa mattina, per cui temo che si profili una situazione di potenziale conflitto, perché il nostro ascoltatore dovrà cercare di dimostrare che non di vendita si è trattato, e il fratello resisterà dicendo che si è trattato di vendita. È possibile che l'ultima parola aspetti ad un giudice, e le cause di cause ereditarie ce ne sono. Immagino. Notaio, quindi insomma avete sempre il vostro bel da fare. Cause, no, sono gli avvocati qua accanto che hanno da fare. Sono cause sempre molto dolorose. Voi teoricamente dovreste intervenire prima ed evitare che questo accada, ma a quanto pare non è sempre così. I notai intervengono sicuramente in via preventiva, le consulenze sulla pianificazione della futura successione. Intervengono anche nella gestione delle successioni non contenziose, o di quelle che stanno per sfociare in contenzioso, per mettere in campo la propria arte di mediazione e composizione degli interessi. Non sempre, purtroppo, perché le liti familiari poi sono particolarmente rancorose a volte, non sempre si riesce ad ottenere il risultato della mediazione, ma molto spesso l'intervento del notaio serve ad evitare il contenzioso, ed è opportuno cercare di non arrivare a fratture familiari che sono dolorose da un punto di vista economico ed emotivo. Notaio Roveda, grazie molte per essere stato con noi. Grazie a voi. Sappia grazie che ha un bel po' di lavoro nel pomeriggio, perché ci sono tanti ascoltatori ai quali non abbiamo potuto dare risposta, per cui le chiederò un aiuto più tardi. Buona giornata. Buona giornata. Sta per andare in onda il traffico. E chi parla? Andiamo. Cuore e denari. Allora, mentre Deborah è qua scatenata, tocca parlare a me. Stiamo ballando. Adoro. Meno male allora che Sting ha parlato della sua eredità, così noi possiamo parlare anche di lui. Molto bene. Ecco, lui ha detto, per chi si fosse messo in contatto solo ora e non avesse letto i giornali di questi giorni, che insomma per i figli si è talmente scatenata che ha pure caldo. C'ho un attimo una scalmana questo momento. Comunque, parlare di Sting, vogliamo parlare di eredità, ne parliamo dal punto di vista di Cuore Denari, parleremo tra poco anche della eredità morale, educativa, nel bene e nel male che abbiamo ricevuto. State già chiamando per raccontarci un po' come valutate quello che vi hanno lasciato i vostri genitori. Ma parlare di Sting significa anche, cari amiche, cari amici, parlare anche della storia della musica, perché i Police sono stati uno dei gruppi più amati e influenti della storia, tanto da vendere, tanto per stare lì a fare un po' i conti. Due in tasca. Conti, capire perché ha accumulato quel patrimonio di prima. 50 milioni di dischi. Però, Deborah, quando noi parliamo di musica, Radio 24, a chi pensiamo? D'obbligo. Il pensiero è obbligatorio e va a lui. A Gegè Telesforo, che è in linea con noi. Ciao Gegè, benvenuto. Buongiorno ragazzi, ciao, buongiorno, che piacere. Tra l'altro io sento l'obbligo di salutare il tuo papà, perché è un grandissimo fan di Cuore e Denari, giusto? Sì. È vero. Il mio papà e la mia mamma ascoltano sempre. Quindi i signori... Io saluto la mamma. Citiamoli. Grazie. I signori Telesforo si chiamano? Ah, si chiamano Roberto e Clara. Molto bene, cara, Clara, hai capito. Clara. E allora, Gegè, non so se tu stai accumulando un patrimonio simile a quello di Sting, hai intenzione di lasciarla alla tua bambina, che sappiamo che tu hai, ma c'è sempre il discorso sui diritti, sulle canzoni di Sting, che faranno campare 10 generazioni. È così, no? Adesso questo commento si può fare su lui. Sì, perché dobbiamo considerare considerare che Sting ha iniziato professionalmente prestissimo a fare musica, e la cosa forte è che lui, che viene da una famiglia umile, addirittura per guadagnare qualcosa ha anche fatto l'insegnante alle elementari, pur non avendo una laurea, però fece un corso serale e iniziò quindi a fare questo lavoro proprio per avere la possibilità di poter sopravvivere come musicista. Fatto sta che adesso che ha 61 anni, credo, e ha 40 anni di carriera sulle spalle, e quindi ha accumulato veramente un patrimonio strepitoso, perché dobbiamo considerare le royalties discografiche, che sono le percentuali sulle vendite dei dischi, quindi in 40 anni, con i vari passaggi che poi ha avuto fra multinazionali e case discografiche indipendenti. Poi dobbiamo considerare i diritti d'autore sulle composizioni, esatto, i diritti editoriali sulle composizioni, e considerare anche il fatto che poi col tempo è diventato producer di tutto quello che realizza. Inoltre il signor Sting è stato per molte volte primo in classifica, quindi voi avete fatto il calcolo veloce sui dischi venduti, ma il fatto di essere... la sua musica continua a essere suonata, perché ha scritto delle canzoni immortali in 40 anni, e quindi come dire, il calderone dei diritti d'autore continua a funzionare. Poi personalmente l'ho sempre amato, insomma, dal periodo dei Police, poi tutta la fase quella più soul e R&B utilizzando musicisti di jazz, che è la mia preferita, ultimamente che si è dedicato alla musica celtica, insomma non lo seguo più con la passione di un tempo. Però si può permettere un po' di divagare anche, no, sul tradizionale. Peraltro stavo pensando, quando ci hai fatto tutte queste cifre, Gegè, Nicoletta, chissà se va in pensione col sistema retributivo contributivo, se si è fatto il fondo pensione Sting, ma insomma non credo proprio che avrà questi problemi. Comunque lui continua a stipendiare la sua azienda, che è fatta anche di tanti dipendenti, perché quando si fa i suoi concerti vanno dietro un sacco di musicisti, tutto lo staff, per cui c'è un entourage anche molto complesso da sostenere. Per quello che riguarda i figli, poi ti lasciamo, Gegè, che sono Joseph, Fuchsia Catherine, Brigitte Michael, Jack, Elliot Pauline e Giacomo Luke, speriamo di averli citati tutti correttamente, ma hanno ereditato un po'. Sei figli, sì? Guarda, te lo dico, a sei sì, figli, sì. Due con la prima moglie e quattro con Trudy. Hanno ricevuto l'eredità tutti musicale, carini, sì, tutti belli. Scusami, non ho hanno sentito. Ricevuto l'eredità musicale, hanno il talento del padre. Beh, certamente, questo non lo posso dire, non lo so, quando saranno presenti sulla scena anche discograficamente capiremo se hanno talento o no. Fatto sta che per loro, dopo le dichiarazioni fatte dal papà, si sta presentando un periodo abbastanza complesso, cioè è intanto essere figli di Sting e voler fare a tutti i costi i cantanti, gli artisti, sì, è un po' impegnativo, è una cosa abbastanza complicata, però sicuramente il loro DNA è buono, perché uno si forma mangiando certe cose e anche ascoltando un certo tipo di musica, e sicuramente la musica che hanno ascoltato a casa era buona. E quindi anche la musica, Gegè, che ti ha fatto ascoltare Roberto era buona. Questa è la musica che mi ha fatto ascoltare papà mi ha fatto ascoltare molto jazz. Io infatti ogni tanto glielo dico, guarda che io purtroppo sono un musicista di jazz, se tu mi avessi fatto ascoltare rock and roll e canta un po' avrei fatto un altro tipo di carriera con altri introiti, però siamo felici dai, così. Sì, sì, ci piace che tu abbia fatto questa, Gegè, lo possiamo assicurare. Senti, abbiamo parlato dell'eredità di Sting ai figli, ma con te che sei un grande esperto della storia della musica, non posso non chiederti che tipo di eredità lascerà Sting al mondo della musica? Beh, Sting ha scritto delle bellissime canzoni e le canzoni sono immortali. Tra l'altro lui ha avuto sempre il buon gusto di utilizzare strumenti veri nel realizzare musica, quindi ha sempre tralasciato un po' l'elettronica, quindi anche la prima parte, fase della sua carriera fatta con i Police ha segnato un momento importante, da un punto di vista sonoro, da un punto di vista compositivo, ha aperto una strada. Io andai a vedere i Police proprio a metà degli anni 70, rimasi folgorato, erano pazzeschi in tre, sì, quello che riuscivano a fare. E poi lui ha una grande dote naturale, che ha una voce inimitabile, cioè una voce riconoscibile. Quando si sente la voce di Sting, un po' come Ray Charles, come Stevie Wonder, come Aretha Franklin, aprono bocca e sono loro. Sono. E certo. Quella è stata anche la sua fortuna. Allora, JJ. Allora, torna presto a trovarci. Sì, ti facciamo attorno a te una bella trasmissione su qualche altro artista, così abbiamo l'occasione per invitarti di nuovo. Grazie. Certamente, grazie, un abbraccio fortissimo. Grazie. Saluta grazie. Clara e Roberto. E voi, cari amici, che eredità vi ha lasciato Sting? Perché le sue canzoni hanno sicuramente accompagnato dei momenti importanti della nostra vita, perché come diceva Nietzsche, senza musica la vita sarebbe un errore. In linea con noi è arrivato il nostro dottor Francesco Aquila, psicologo e psicoterapeuta cognitivo, che ci accompagnerà da adesso, che sono le 11:56, sino al termine del programma, per parlare di educazione, valori, di quell'eredità morale che ci hanno lasciato i nostri genitori, ma anche, perché no, del legame che abbiamo con le canzoni di Sting, perché sicuramente ci ricorderanno dei passaggi importanti della nostra vita. Dottor Aquilar, benvenuto. Buongiorno e buongiorno a tutti, buongiorno. I nostri ascoltatori. Iniziamo da Sting? Perché no? Perché no? Che so che lei è un commentatore raffinato dell'influenza della musica sulla nostra psiche. E certo, e Sting rappresenta naturalmente, come diceva Gigi Telesforo, un caso particolare. Possiamo dire, dal punto di vista della psicologia della musica, che lui sostanzialmente descrive due aspetti principali che ci riguardano tutti: l'ansia amorosa e l'ossessione amorosa. E la riesce a descrivere con una melodia particolarmente originale e interessante, e a volte condita anche con un pizzico di umorismo, come per esempio in Don't Stay Too Close to Me. E quindi è chiaro che rappresenta qualcosa di importante. Tutti noi siamo stati ossessionati per qualche tempo dall'amore, o siamo stati in ansia per la paura o per il desiderio di un amore che volevamo inseguire. E quindi è chiaro che rappresenta un punto importante nella storia della musica. Allora, non accendevo il microfono. Sì, il dottor Aquila rimane con noi. Certo. 800 24 00 24. Insieme a Deborah andiamo a sentire il nostro GR e poi ritorniamo subito dopo insieme. Voilà. Cuore e denari. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Torniamo a parlare di eredità. E intanto Deborah canta. Se voi volete stamattina chiamarci, le conosco tutte, stranamente. 00 24 00 24. In linea con noi abbiamo il nostro, dico nostro perché è un esperto nostro. Del nostro Daily Lab, il dottor Francesco Aquilar, psicologo e psicoterapeuta cognitivo. Insomma, si ereditano soldi, forse i figli di Sting non li erediteranno, però si ereditano proprietà, geni, ma anche valori, sicurezze, complessi, fragilità, paure. Vogliamo fare due conti a cuore denari e in questa ultima parte della trasmissione parliamo di eredità educativa e morale. Allora, come giudichereste il patrimonio che avete ricevuto? In altre parole, per non girarci troppo intorno, secondo voi, nella vostra vita, nelle vostre scelte, nel vostro modo di essere, i vostri genitori hanno avuto un ruolo positivo o negativo? Davanti al vostro bilancio, ora che siete diventati grandi, siete adulti o, come si dice, maturi, mettete un segno più o un segno meno, o siete ancora in attesa di capire quale dei due segni vorreste mettere? 800 24 00 24. Il dottor Aquilar è qui pronto a nostra disposizione per aiutarci. Dottor Aquilar, a fare che cosa? A cercare di capire in che cosa consiste soprattutto l'eredità che riceviamo, che al primo posto riguarda la gerarchia dei valori rispetto ai quali ci muoviamo, soprattutto nelle due fasi, cioè l'apertura al cambiamento e la conservazione, e dall'altro lato l'autopromozione, cioè lo sviluppo di noi stessi, e l'autotrascendenza, cioè l'attenzione agli altri. La proporzione tra questi valori è la cosa più rilevante che ereditiamo dai nostri genitori, se abbiamo avuto a che fare con loro nella vita, naturalmente. Se siamo stati allevati da altri, non è così. Diamo subito la parola ai nostri ascoltatori. Altro che, perché le testimonianze già vedo, sono tutte molto interessanti e molto significative. Cominciamo, oggi non abbiamo problemi di cavalieri e dame, perché abbiamo due dame in onda. Giusy da Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. Sì, Giusy? Sì, sono qui. Ci dica. Io ho avuto un'eredità bellissima dai miei genitori. Sì. La donna che sono lo devo veramente a loro, perché non ho avuto un'eredità cospicua, ma mi hanno dato tutto in vita. Sia a livello di sentimenti, perché c'è stato un amore totale, assoluto, nei nostri confronti, sia mio che di mia sorella, e quello che avevano, perché noi eravamo una famiglia, mio padre era un agricoltore, non era un ricco possidente, comunque è stato dato tutto a noi. Ci hanno fatto studiare, ci siamo laureate, e tutto quello che siamo lo dobbiamo a loro. Quindi mettiamo un segno più per Giusy. Dottor Aquilar. Ecco un esempio appunto dei valori. In qualche modo questi genitori che Giusy ci racconta hanno dettato le regole sulle quali poi i figli si potevano muovere, sì, e hanno dettato delle regole condivisibili e che puntavano allo sviluppo di questi figli. In questo caso quindi l'eredità è del tutto positivo ed è normale che Giusy li ringrazi. Dottor Aquilar, l'eredità arriva spesso quando siamo adulti, no? E ci auguriamo che arrivi più tardi possibile. E da uomini, da donne e adulti, oggi vogliamo con lei valutare quello che in termini di valori ed educazione ci hanno lasciato i nostri genitori. Ci sta aspettando anche Eliana dalla provincia di Roma. Ma il nostro Alberto Pellai dice spesso che i buoni genitori danno ai figli radici e ali. Radici per sapere dove è la loro casa, ali per volare via e mettere in pratica ciò che è stato loro insegnato. Ma dottor Aquilar, lei lo sa bene, come ci sono tanti modelli di auto, di orologi, ci sono anche tanti modelli di ali e di radici. Ci sono ad esempio delle radici che non vanno bene a fondo, oppure delle ali troppo piccole che non volano tanto bene. Questo è il nostro lavoro individuale sull'eredità morale e psicologica che riceviamo dai genitori. Non c'è bisogno di essere troppo adulti, ma già dai 18-20 anni noi possiamo in qualche modo sottoporre a una verifica critica compassionevole quello che abbiamo ricevuto, assumendo anche il punto di vista dei genitori e facendo un passo in più. A noi tocca sempre fare un passo in più della generazione precedente, collaborando o correggendo il tiro se il passo sul quale siamo stati formati fosse in una direzione sbagliata. Non è tanto il problema di avere le ali, ma è dove andiamo con queste ali. Sì, e tante volte non andiamo tanto lontano. E intanto? Intanto, dottor Aquilar, facciamo una specie di gioco, se è d'accordo, per attivare i nostri ascoltatori e invitarli in qualche maniera a venire allo scoperto, perché poi magari di questi argomenti non è che si parli in maniera molto semplice, no? Ci abbiamo anche un pochino di pudore a ricordare magari cose del passato e a riflettere un po' su questi aspetti. Una variante del gioco del se fosse. Se io dico genitori, quali sono le emozioni dominanti che vi attiva questa parola, no, dottor Aquilar? Cosa possiamo sollevare come sentimenti attivanti? È certamente la rabbia, oppure la tristezza, oppure la malinconia, la serenità, il rispetto, la tranquillità. E questo gioco va benissimo, e noi ci limitiamo però alle emozioni verso i genitori che sono consapevoli, perché poi ce n'è un'altra parte alla quale non è sempre facile avere accesso. Comunque giochiamo su questo. Certo. Giochiamo su questo. Allora, intanto abbiamo Liana dalla provincia, esatto, di Roma, che abbiamo lasciato lì un po' in stand-by perché volevamo lanciare il nostro gioco del se fosse un, esatto, po' corretto. Ma Liana ci riporta praticamente sul terreno dal quale siamo partite. Liana, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Benvenuta. Allora, grazie, è un piacere di ascoltarvi, come posso lo faccio. Volevo, che cosa l'eredità distingue? Alla mia famiglia ha lasciato una bellissima cosa. Mio fratello amava i Police, la musica distingue. Per capire i testi ha studiato inglese. Parla l'inglese meglio dell'italiano, è laureato in scienze statistiche ed è responsabile all'Università di Melbourne di un progetto da 20 milioni di dollari. Liana, ci saluti tanto questo ragazzo. Beh, che Sting non ha dovuto fare nessun testamento per lasciare tutto questo. Come si chiama suo fratello, Liana? Luca. Benissimo. Complimenti, grande, Luca. Complimenti alla sua famiglia e complimenti, ce lo saluti tanto, naturalmente. Andiamo adesso da Carlo, che ci chiama da Reggio Emilia. Carlo, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Io forse non farò un intervento bellissimo perché... Bravo, faccio un intervento bruttino, guardi, che ci piacciono. Entro gamba tesa, mettiamola così, vado. Dai. Allora, 55enne io, ultra 30enne i miei, 24enne il figlio. Sì. cosa penso di lasciare in eredità? Beh, dunque, cosa ho preso prima di tutto? Sì. Come ha detto un'ascoltatrice prima, quello che sono nel bene e nel male l'ho ereditato come valori, come filosofia di vita, non saprei come dire, sì, ovviamente dai genitori. Però teniamo presente da dove arrivavano loro, ovvero quali erano i valori sui quali hanno impostato la loro famiglia. Valori che ahimè oggi, come dire, per fortuna in un certo senso non veniamo da una guerra, no? No. Quindi voglio dire, è un po' più facile la vita oggi, ma è talmente corrotta, e quando uso la parola corrotta intendo a 360 gradi, quindi anche proprio sì, compromessa, non saprei come dire, ha una cancrena dentro questa vita, tale per cui mi chiedo se davvero riesco io, al di là del programmarlo meno, a passare un valore, un esempio, ovvero la mia vita, come quella della maggior parte degli italiani, specialmente oggi, è fatta di grandi compromessi, non sempre piacevoli, e quello, ahimè, viene a casa con noi quando andiamo a casa. Assolutamente. Sa Carlo, per cosa cui... pensavo preparando insieme a Deborah questa scaletta? Che i genitori di ieri avevano o davano ad intendere di avere più certezze e meno dubbi, no? Invece quelli di oggi, in cui io mi riconosco perché sono genitore e ho due figlie, tendono ad avere più dubbi e meno certezze. Dottor Aquilar, intanto a commento di quanto ci ha raccontato adesso Carlo, che poi sicuramente proseguirà il suo intervento. Certo, perché ritorna anche il nostro ascoltatore Carlo sul tema dei valori. Quando lui mette in risalto alcuni aspetti di corruzione della nostra società, sta lavorando su come porre in essere concretamente i valori quando si ha a che fare con una società imperfetta. E anche qua, una società che aveva delle certezze come quella dei nostri genitori, a volte era impropria nella descrizione della realtà. È vero. Era. Mentre invece adesso avere più dubbi significa poter avere una visione critica, ma anche al di là dei dubbi ci sono delle certezze scientifiche sull'educazione, sulla psicologia e sulla psicoterapia, e se noi aderiamo a quelle diciamo delle cose più vere di quelle che dicevano i nostri genitori basandosi sulla tradizione. Quindi c'è un vantaggio da questo punto di vista. Carlo. Vuole citato la mia filosofia, io ero preoccupato, invece mi sembra di agir bene alla Vede Carlo, quando c'è un dubbio ci sentiamo un po' così, si chiama cuore denari. Era partito col pregiudizio, dissolto in un secondo. Comunque sto facendo la formica, in famiglia facendo la formica, perché metti che l'esempio non passi bene, beh almeno... i valori diversi, quelli monetari, la pietra resterà. Carlo, intanto Marcella da Venezia ci ha mandato un messaggio scrivendo grande Carlo con tanto di punto esclamativo. Non so, questa è veramente la sua giornata. Benissimo. Oscar invece scrive: dai genitori ho ereditato soprattutto i valori, l'educazione, ma molto è cambiato dopo il matrimonio grazie a mia moglie che mi ha plasmato in maniera sicuramente positiva. Quindi lui in sostanza dice che sì, probabilmente i genitori avevano creato un buon presupposto poi per ricevere anche questo contributo positivo nel matrimonio. I miei genitori, ora ho solo mia madre, mi hanno dato tutto, mi hanno permesso di crescere mia figlia da sola, oggi quarantenne. E ci scrive così Daniela. E voi continuate a chiamarci, a scrivere, a intervenire, proponetevi e provate a lasciarvi stimolare dalla variante del gioco del se fosse. Alla parola genitori, come vi ha chiesto Deborah, abbinate uno o più emozioni. Ma dottor Aquilar, noi quando diventiamo genitori, volenti o nolenti, tendiamo a riproporre ai nostri figli schemi e modelli della relazione che abbiamo vissuto. No. A volte questo succede senza che ce ne rendiamo conto, a volte invece c'è da parte nostra l'intenzione di farlo o di non farlo. Lei come psicologo sicuramente si sarà sentito dire chissà quante volte: seguo l'esempio di mia madre, oppure non voglio assolutamente fare come mia madre. Sono due atteggiamenti tra loro molto diversi, antitetici, ma in realtà possono avere dei punti anche in comune. Certo, perché quello che conviene fare è provare a differenziare. Intanto non conta tanto quello che i genitori hanno detto, perché la comunicazione verbale resta aria, conta quello che i genitori hanno fatto, e le persone quando si ispirano ai loro genitori dovrebbero ispirarsi con una modalità bonariamente critica, nel senso che ripetere pedissequamente o fare l'esatto opposto è troppo grezzo. Noi dobbiamo pian piano imparare a differenziarci, a prendere quello che c'era di buono e ad elaborarlo in maniera più aderente ai tempi e alle nostre emozioni. Questo può aiutarci a rendere l'eredità proficua anche se fosse una bussola al contrario, cioè non voler fare tutto quello che hanno fatto loro, ma due cose buone l'avranno fatte e forse quelle possiamo ripeterle. Abbiamo messo da parte la ricetta di Obama, sì. Vero Deborah? Vuoi leggerla tu? Un modo in cui Obama praticamente racconta la difficoltà di essere genitori e prova anche a dare dei consigli molto semplici. Noi l'abbiamo chiamata la ricetta di Obama, volevamo un po' commentarla con voi. È una ricetta che, se vogliamo, può essere assolutamente condivisa anche dalle nostre nonne. È una cosa di buon senso, ma Obama. La responsabilità è notevole. Per questo occorre fare i conti seriamente con la propria esperienza di figli per impostare più adeguatamente quella di genitori. È vero che viviamo nella società dell'incertezza, tuttavia non è tutto incerto. La psicologia e la psicoterapia scientifica danno alcune informazioni precise ed indicazioni rassicuranti perché si sforza di conoscerle. A volte è difficile, specie per alcuni che hanno vissuto senza questa possibilità, appunto facendo i conti con le nostre esperienze passate, soprattutto aumentando le nostre capacità emotive e relazionali. È possibile però integrare, talvolta ribaltare, le modalità relazionali nelle quali siamo cresciuti. È faticoso, ma ne vale davvero la pena. Dottor Aquilar. Certo, è assolutamente questo lo schema da utilizzare, nel senso di fare una revisione critica benevola, ma di cercare di differenziare anche tra il copiare pedissequamente quello che è stato fatto o il pedissequamente fare il contrario. In realtà dobbiamo renderci conto di quali sono le nostre emozioni rispetto all'immagine dei genitori e stare attento a quello che facciamo nei confronti dei nostri figli. Noi possiamo mentire a tutti, tranne che ai nostri figli, perché ci vedono e capiscono le ragioni del nostro comportamento. E a proposito di questo, Giuseppe da Padova è pronto, con la sua pescato al volo. Giuseppe, lei proprio, come si suol dire... Di cocco di pippa, caccio sui maccheroni, come si dice? Sì, la butto lì brevissima. Allora, io da genitore ho pensato di non ripetere un errore dei miei. Sì. Ovvero sia, non filo guidare i figli in tutto quanto, lasciargli che avessero lo spazio per sbagliare, perché altrimenti non sono mai cresciuti. E questo come primo problema. Secondo problema, mi sono trovato che nessuno dei due inizialmente ha fatto gli studi inerenti alla mia attività. E così, vabbè, ho dovuto accettare, ho detto va bene, qui c'è un'attività, ma bisogna che ognuno vada avanti per la sua strada. Esatto. Allora, uno ha fatto il Politecnico di Milano, ha finito tutto quanto in regola. Dopo ha voluto fare un anno in Inghilterra e ha dovuto spalare merda di cavallo cercando un lavoro. Tornato un pochino con la coda nelle gambe, ha accettato di fare la biennale di specialistica a Venezia. Sì. Adesso lui lavora a Berlino in uno studio dove segue tutta una serie di attività con una discreta responsabilità. Quindi siamo soddisfatti, Giuseppe, ma per arrivare un po' all'altro, perché siamo quasi in chiusura. Allora, questo è uno. All'altro gli ho detto, guarda, dato che ti sei messo a studiare economia e commercio, che è pari al lavoro che stiamo svolgendo come studio, ricordati solo una cosa, gli ho detto l'anno scorso. Fai l'esperienza e gli studi necessari oppure vai a lavorare da qualche altra parte, perché qui non c'è spazio per fare per dare del lavoro a chi non ha voglia di farlo. Questo per sollecitarlo a crearsi responsabilmente un'esperienza, non trovare la pappa già fatta. Insomma, è un po' del partito di Stinghi. Esatto. Risolvetevi i problemi da solo, perché anche questo, però comunque con la certezza che papà c'è. A fianco. Invece Sting non sappiamo. Dottor Aquilar, però c'è per un commento finale di questa riflessione a voce alta, in cui non abbiamo avuto, come fa notare un ascoltatore, delle interventi in cui c'è rabbia, rancore nei confronti dei figli, oppure dei genitori o dei fratelli, e non lo so, ce ne saranno per la prossima volta. Dottor Aquilar, in 30 secondi un messaggio. Perché gli interventi di rabbia richiederebbero più tempo, quindi le persone hanno bisogno di maggiore la meditazione. Vede? Ma come diceva il nostro ascoltatore, c'è la dinamica tra l'aiuto da dare ai figli e la libertà di potersi sviluppare. E questa dinamica deve trovare un punto di equilibrio. E questa differenziazione ci può senz'altro aiutare. Ultimissima cosa, la nostra ascoltatrice Eliana, il cui fratello, studiando le canzoni di Sting, ha imparato l'inglese. Sì. È che quello è un effetto classico di Sting, dove lui ha una musica strepitosa e delle parole che incuriosiscono perché a volte sono troppo chiare. Ma meraviglioso. Dottor Aquilar, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata. A presto. A domani.